Europa 24. Quale Parlamento europeo si prepara nei prossimi 5 anni di legislatura? Buongiorno da Sergio Nava. Oggi a Europa 24 andiamo a indagare le priorità degli eurodeputati italiani che siedono alla plenaria di Strasburgo. Ai nostri microfoni David Sassoli, vicepresidente del Parlamento europeo, membro del PD e del gruppo Socialisti e Democratici. Dobbiamo rendere più trasparente il luogo della democrazia europea per renderlo più forte. E quindi la trasparenza, l'accessibilità e anche la comunicazione, perché qui in realtà passa un processo legislativo che per il 70% poi saranno le leggi nazionali. Questo non può essere in un cono d'ombra, dobbiamo coinvolgere l'opinione pubblica, per cui la comunicazione non tanto come propaganda, ma la comunicazione come rapporto fra istituzioni e cittadini. Accessibilità, trasparenza, perché nulla resti opaco, e comunicazione. I dossier da chiudere però in questa legislatura, perché si è fatto un lavoro nella scorsa, evidentemente non è bastato per convincere gli elettori che hanno votato fortemente per partiti euroscettici, quindi ci sono dei dossier che a questo punto vanno presi di petto. Sì, adesso torneranno molti dei dossier che in seconda lettura sono stati votati nella scorsa legislatura, ce ne sono alcuni di grande rilevanza, pensiamo a tutta la partita che riguarda i trasporti, le ferrovie, i porti, quindi le infrastrutture, far capire che stiamo parlando di reti che poi incideranno molto nella vita delle persone. L'Europa utile non è uno slogan, è la necessità di far capire che tutto quello che avviene nel Parlamento europeo poi ha un riflesso nella vita quotidiana delle persone. Lei personalmente invece su cosa si impegnerà da vicepresidente? Da vicepresidente ho detto vorrei che il luogo della democrazia europea diventasse più forte e anche più centrale. Poi io sono impegnato come parlamentare nella Commissione Trasporti perché ho lavorato la scorsa legislatura, sono stato anche relatore di una riforma che è quella del traffico aereo che tornerà in Parlamento e naturalmente mi vedrà un po' protagonista. Non è una riforma astratta, anche lì si va a toccare la vita. Quanto costeranno di meno i biglietti aerei, quanto inquineremo di meno, quanto l'Europa darà sicurezza. Voi accompagnate anche questo semestre presidenza italiana, il tema vero è quello della flessibilità nei conti, c'è un'apertura da parte del Parlamento, al di là delle famiglie politiche, per riuscire a dare all'Italia quei margini di flessibilità che chiede? A me sembra che questo sia più forte e più diffuso, questo consenso di quello che magari appaia, perché nel Parlamento europeo già nella scorsa legislatura sono stati votati trasversalmente e sono state date indicazioni proprio per rendere più forte la flessibilità. Naturalmente in questo caso noi abbiamo un Consiglio che ha deciso di scommettere con la formazione della Commissione nelle riforme e nei paesi che faranno le riforme e riforme in cambio di flessibilità. Ecco, questa rafforzare già questo meccanismo sarebbe molto importante perché non diventerebbe astratta l'idea che noi insieme a paesi che devono tenere bene i conti ci dobbiamo aggiungere investimenti, risorse e crescita. Ecco, queste sono le sfide della legislatura che è appena iniziata. Il suo messaggio da vicepresidente del Parlamento europeo a quei cittadini che hanno votato contro questa Europa, quell'Europa che considerano troppo burocratica e fondamentalmente inutile per loro? L'Europa è burocratica perché manca la politica e quando manca la politica la burocrazia la fa da padrona. Dobbiamo avere, ecco perché è importante il luogo della democrazia, il Parlamento. Dall'altra fate attenzione, cari cittadini, perché l'Europa vi entra in casa, vi entra nel negozio, vi entra nel posto di lavoro e quindi quello che succede qui non è ininfluente. L'Europa ha una possibilità di farti stare al mondo, perché senza l'Europa come potresti competere con paesi che corrono molto più dei nostri paesi? Noi abbiamo bisogno dell'Europa, l'Europa utile per stare al mondo. Ed è tutto per questa edizione di Europa 24, ancora un saluto e un augurio di buona giornata da Sergio Nava. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.